Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9, sono le 21.05, inizia prove tecniche di trasmissione. Come ogni mercoledì sera, stasera fino alle 22.30 e dopo, se la memoria non mi inganna, ci dovrebbe essere 25 o'clock. Ricordo la sottoscrizione per questa radio. Andando sul sito ci sono le varie modalità di adesione tramite il conto corrente, carta di credito, bonifico eccetera. E poi la Scarceranda 2022 che già si può reperire qui in radio e in giro per i centri sociali anche tramite iniziative. Salutiamo Cecilia Miradoli di Pindar, Marco Milanesio, Gianluca Becuzzi, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Maia e Nicololocci della Sardegna. Tabula rasa dalle parti di Cortina d'Ampezzo. Alberto Clipper. Alessandra qui a Roma al pari di Laura. E poi Rosa La Vita, il medico della peste, Francesco Cornello a Bergamo, Mariano Virdi a Berlino. Like Wake, storico progetto Ambient. Giulia qui a Roma. Anche Lucia Cagliazza in arte Lupsi, progetto interessante che viene da Udine. E allora andiamo subito ad iniziare e lo facciamo con un progetto di Eugenio Mazza e Marco Valenti dal nome Camera Oscura. Il tutto esce attraverso la Totten Schwan, etichetta milanese assai attiva negli ultimi tempi, etichetta dello stesso Marco Valenti. Quindi è nata anche questa collaborazione tra questi due musicisti provenienti da quelle parti. Ci inoltriamo nell'ambiente più oscuro attraverso Atanor e Interitus. lavoro estremamente eclettico, come avrete potuto apprezzare proprio con le prime due tracce di questo Quod Est Inferius per quanto riguarda Camera Oscura, collaborazione tra Eugenio Mazza, già di Pavor Nocturnus, progetto diciamo molto più dilatato e ambient di questo, e con Marco Valenti, fondatore della Toten Schwan, con la quale esce proprio questo album di Camera Oscura. Una prima traccia in parte dilatata, in parte più martial, e invece una quarta traccia decisamente più elettronica e particolare per quanto riguarda questo Quod Est Inferius. Intanto saluto Naresh Ranruotolo, che a breve chiameremo in causa, Ant Christ di Omicidio, bentornato a lui, Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, Maria qui a Roma. Cominciamo questa sera invece a conoscere una produzione di Raffaele Pezzella attraverso la sua 8 Tower Records, etichetta nata qualche tempo dopo rispetto alla Nesplay Sounds Group. Un'etichetta che diciamo dovrebbe essere più specializzata verso sonorità più in sospensione rispetto alla etichetta madre. E in questa circostanza un album dedicato all'opera di Lucio Fulci, che molti di voi conosceranno, regista diciamo horror, giusto per darci una regolata per chi non lo conoscesse. E l'album in questione si chiama The Beyond, Music Inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy. Quindi un'ideale colonna sonora alternativa delle opere, della trilogia delle opere di Lucio Fulci, in attività dagli anni 70 fino agli anni 80, soprattutto per quanto riguarda la sua fase migliore. Quindi Raffaele Pezzella ha chiamato a raccolta una serie di artisti italiani e stranieri, e quindi questa sera cominciamo proprio con il già citato Naresh Ran con Enoch e poi Club con The Blind Woman. Ennesima uscita per quanto riguarda la 8 Tower Records di Raffaele Pezzella, questa The Beyond, Music Inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy. Come dice il titolo, dunque, un album ispirato al culto artistico di questo regista italiano, Lucio Fulci. E questa sera dunque due ipotetiche colonne sonore per un ipotetico nuovo film magari di Lucio Fulci, comunque titoli che prendono spunto da personaggi o da titoli proprio nella carriera di Lucio Fulci, nello specifico Enoch di Naresh Ran e The Blind Woman di Club, David Ferreira, artista spagnolo. Chiaramente un album che ascolteremo anche le prossime settimane, praticamente nella sua interezza. Ci sono 14 tracce che vedono anche impegnati, per esempio, Dario Righi, che leggo adesso e che vado a salutare, di Progetto Non Em, insieme a Sara Capo Fontana, Duo Serpe, Mariolino Stancati, Bad Girl, e tutti questi artisti vengono tirati in causa per 3-4 brani cada uno. Ci spostiamo adesso da altre lidi con tre personaggi sicuramente di riferimento della grey area e del neofolk. Personaggi che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni e che vanno a fondare questo micro collettivo dal nome Boyd Rice and Friends. I Friends sarebbero Douglas Pearce e Alvin Julius. E con questa formazione hanno stampato un unico album nel 2002 dal nome Wolf Pact. Vedo. Ci andremo a godere Watery Levitian, The Forgotten Father e la title track proprio Wolf Pact. Look toward heaven, eyes wide open, turn your ask him about the rites and beliefs of this sect. As I approached, I thought I recognized his voice. It was Douglas. I asked what he was doing there, and he replied, he quite liked this unusual temple, and stopped to see it whenever he was in this part of the world. I soon noticed that Doug was not, in fact, dressed in camouflage. He was naked, and was simply painted camo from head to toe. I began to wonder aloud if this wasn't all some strange dream. Doug assured me that it wasn't. This constituted the most ancient doctrine known to man, and the unknown tradition from which all known to the West had derived. These people worship the hidden god, a god so old in antiquity that even at the dawn of recorded history, he was known only as the Forgotten Father. They dress in camouflage to honor him and to be like unto him, hidden, unseen. Invisible. That's why they turn their faces from me and refuse to meet my gaze. According to legend, the Forgotten Father had come seemingly from nowhere and taught men his secrets. He took many wives from amongst the daughters of men and then vanished mysteriously back to where he had come from. Some of his descendants. Oh, Boyd Friends, Boyd Rice and Friends, ossia Boyd Rice e i suoi amichetti, i suoi amici, già menzionati prima e che hanno dato alle stampe anche altri album con nomi leggermente diversi, non ultimo per esempio Music, Misantropi e Martini, giustamente ricordato da Gianluca Becuzzi, Scorpio Wind, Alarm Agent, cambiando magari leggermente la ragione sociale, ma poi il senso era quello. Lo ricordiamo anche come Non, in versione nettamente più industrial di questa, perché poi Boyd Rice rimane il, diciamo, il principale attore di queste produzioni, compreso Wolf Pact del 2002. Sentite come prosegue in toni martial, sui quali andiamo anche a salutare Wurnus Eilin, progetto industrial proveniente dal Piemonte. Si torna in Italia, Gianluca Becuzzi, già salutato qualche minuto fa, lo andiamo a sentire invece nella sua ultima fatica molto molto interessante dal nome Mana, ancora una volta incentrata sulla figura dello sciamano. Album ritualistico, a suo modo anche esoterico, che andremo anche a goderci attraverso il secondo CD, con Wakan e poi una prima parte di Blood of the Mountain. chiama Mana, ultima fatica di Gianluca Becuzzi. Sul profilo Bandcamp anche ficcanti con considerazioni dal punto di vista antropologico, considerazioni che riguardano l'album stesso. Si parla di elevazione spirituale collegata al potere della musica, prospettiva e concezione che credo accomuni molti di noi appassionati di queste sonorità. Wakan e Blood of the Mountain, la prima parte con la partecipazione anche di Cristiano Bocci. Ci sono anche dei samples, come si può anche sentire, di lontani conventi tibetani. Un'opera importante tra le migliori del 2021 per quanto riguarda Gianluca Becuzzi. Saluto Valerio Michetti e Ale Trinity di La Grazia Obliqua e Fade to Grace. E adesso ci trasferiamo in Scandinavia, andiamo nella Svezia di Deutsche Nepal, Peter Andersson, Lina Baby Doll. Qui si sono, diciamo, sia il vero nome sia anche lo pseudonimo che ha usato in diverse situazioni e collaborazioni. Il primo agosto è uscito questa compilation di Deutsche Nepal dal nome Dystopian Party Collection numero 3, e quindi sono già esistite i primi due volumi già mandati qui da queste frequenze. Trattasi di tracce inedite, collaborazioni, progetti appunto che ha visto la partecipazione del nostro Lina Baby Doll, per cui andiamo ad iniziare con una traccia dal nome Telepathic Hotline insieme a Mag Not Air. Poi Genito, che fu un progetto che vedeva insieme Lina Baby Doll, Benny Nilsson di Mortound e Hazard, che va a coverizzare in Manner of Speaking dei meravigliosi Tuxedo Moon.